We taking over lead, make them fall away. Sing it. Allora, in diretta su Onda Rossa, dai pure te, riusciamo a entrare in collegamento con Piazza di Montecitorio, dove si sta tenendo la manifestazione a sostegno del popolo palestinese. Pronto? Sì, pronto, siamo qua. Ciao. Da Montecitorio, sì. Com'è? Dici, abbiamo già sommariamente presentato la cosa, abbiamo ascoltato anche prima Mary da Gaza e niente, dici un po' come sta andando. Allora, il presidio è appena cominciato, ma la piazza è già quasi piena, quindi molto bene, tante chefie, tante bandiere palestinesi, si stanno susseguendo un po' di interventi, insomma, per far sentire la voce solidale della Roma solidale con Gaza e con la Palestina, sotto questo governo infame che invece continua a fare accordi commerciali e strategici, militari con il governo di Israele. E quindi, insomma, speriamo di continuare a crescere nei numeri, magari di poterci muovere tra un po' nelle vie della città per ricordare, insomma, che c'è una Roma al fianco della popolazione palestinese che vorrebbe essere lì con loro e, insomma, portare la voce della Palestina in tutto il mondo. Quindi il presidio va bene, l'invito è a venire tutti e tutte qua sotto, che tra un po' ci muoviamo. Piazza di Montecitorio, va bene, allora rimaniamo in contatto, magari ci sentiamo più tardi. Grazie per ora. Dai, un abbraccio, ciao, ciao, ciao pure a te, ciao. Allora, sì, in diretta da Piazza di Montecitorio.